potuto insegnare il Dhamma in italiano, ma mi mancano le parole. Allora sono grato a Massimo che viene a traduire per me. Questo ritiro ho due meditatori esperti nella meditazione intuitiva che mi aiutano con le colloqui. E anche Luisa terrà un colloquio su ostacoli domenica. Allora è meglio che parlo in inglese. So I'd like to start with explaining those our little opening ceremony. And if I hand these out. Vorrei iniziare spiegando la cerimonia di apertura. Questo è molto alto. Questo è in inglese. There's two people who speak English, they don't speak Italian. They're here? No? Ah, one comes under. So is Matt here? Matt. Ah. Have you got any English version? How many people have not practiced in a Buddhist center? Quante persone non hanno praticato in un centro buddista? Ah, okay. So especially for you, I'd like to just explain this puja. Specialmente per voi, ora vi spiegherò la puja. So we begin by bowing, and bowing is a very strong expression of giving in, following. Si comincia con l'inchinarsi e questa è una espressione molto forte di lasciarsi andare, di abbandono. To surrender. Surrender. Sì, arrendersi. Ah, because you have to, as it were, receive the teaching with confidence. Perché bisogna ricevere gli insegnamenti con fiducia. Ah. And what we're putting our confidence in is the Buddha, the Dharma and the Sangha. Ciò in cui poniamo la nostra fiducia sono il Buddha, il Dhamma e il Sangha. So we begin by you read the Pali as you see it. Il Pali si legge come è scritto. Mm. All the vowels are open. Like in Italian. Come in italiano. So first of all we honor the teacher. Prima di tutto si onora il maestro. So remember he only taught what he himself had experienced. E ricordate che lui insegnò solo ciò che lui aveva fatto esperienza. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. And then we take refuge in the Buddha himself. E poi prendiamo rifugio nel Buddha stesso. And then the Dharma. E poi nel Dhamma. So the Dharma is both the understanding but the practice as well. Il Dhamma è sia il capire ma anche la pratica. And we follow the meditation teaching of Mahasi Sayadaw of Burma. Seguiamo gli insegnamenti di meditazione di Mahasi Sayadaw della Birmania. There's a picture of him here on the wall. C'è una figura su, una foto sul muro. So he developed this system of insight meditation, Vipassana. Lui ha sviluppato questo sistema di meditazione di insight, Vipassana. And it's one of the major techniques in the West. Ed è una delle principali tecniche nell'Occidente. The other one, some of you may know, is taught by Goenka, the Ubakin method. The other one is taught by Goenka. L'altra è insegnata da Goenka e da Ubakin. But there's also a much more simpler way of practicing, which you often find taught by the forest sangha. C'è una modalità più semplice di praticare che è insegnata dal sangha della foresta, forest sangha. And then we take refuge in the sangha. E poi prendiamo rifugio nel sangha. So this is all the people, both monks and lay people, who have experienced nibbana. E il sangha è l'insieme di tutte le persone, sia monaci che laici, che hanno avuto esperienza del nibbana. The word sangha usually refers to the monastic orders. Normalmente la parola sangha si riferisce all'ordine monastico. But here it refers specifically to people who have experienced nibbana. Qui è riferito specificatamente alle persone che hanno avuto esperienza del nibbana. So they are witnesses to the Buddha's own experience. Quindi sono testimoni dell'esperienza del Buddha. And it gives us a certain confidence that even today people occasionally are fully liberated. E possono darci la fiducia che anche oggi le persone possono liberarsi completamente. Yeah. Unfortunately, I'm not one of them. Sfortunatamente non sono uno di loro. And then we take these eight or nine precepts. E poi prendiamo gli otto o i nove precetti. The first one is that, you know, we're not going to harm anybody. Il primo è che non volete far del male a nessuno. Take what is not given. Sì. O prendere ciò che non è dato. The next one really is undertaking for this time a vow of celibacy. Il terzo è a riguardo della come si dice? Dell'astinenza. Because we need all the energy that we have to make progress spiritually. Perché abbiamo bisogno di tutta l'energia che abbiamo per fare dei progressi spirituali. So you have to put aside erotic and romantic desires till the weekend. Quindi per questo weekend dovete mettere da parte i desideri sessuali e romantici. Not to use wrong speech, this is easy because we keep the silence. Non usare la parola in modo scorretto qui è facile perché dobbiamo tenere il silenzio. When it comes to drinking, of course, even a lot of coffee can make your mind very busy. Quando si parla del bere, ricordate che anche molto caffè può far diventare la vostra mente molto occupata. Agitata. But tea is very good. Il tè va bene. I shall be speaking about eating tomorrow morning. Parlerò del mangiare domattina. So these are specific rules for the retreat. Queste sono regole specifiche per il ritiro. And sleeping, so virtually everybody comes with some imbalance in their sleep. Per quel che riguarda il dormire, praticamente tutti arrivano con qualche imbalance, squilibrio del dormire. Either they're sleeping too much or not enough. O hanno dormito troppo o troppo poco. So it for those of you who are staying a week, it takes 2 or 3 days to make that balanced. E per quelli che ci stanno tutta la settimana, ci vogliono 2 o 3 giorni per ribilanciarsi. Yeah, and so over the weekend, if you feel especially sleepy, not to be concerned. E quindi durante il weekend, se vi sentite particolarmente addormentati, non vi preoccupate. Even so, you must make a special effort to keep awake. Anche se dovete comunque fare uno speciale sforzo per rimanere svegli. Not to indulge means to try to quieten the mind. Indulgere ai divertimenti. Significa di cercare di tenere la mente quieta. Our biggest obstacle is the mind. Il nostro più grosso ostacolo è la mente. With its thoughts and its stories and its imaginings. Che continua a raccontarci storie e immaginare. So we make an effort not to indulge in any of that. E quindi facciamo uno sforzo di non indulgere in nessuno di questi. It's good to remind yourself that while you're on retreat, you can do nothing about your life out there. È una buona cosa di tenere a mente che mentre si è in un ritiro non si può fare niente riguardo alla nostra vita fuori da qui. So if you have any anxieties or anything to plan for the future, you see, abandon it. Quindi se avete qualsiasi ansia o qualsiasi piano per il futuro, abbandonateli. Yes. Usually 99% of what we are anxious about doesn't happen. Di solito almeno il 99% di quello che ci rende ansiosi non succede. So if you say to yourself, well, whatever, you can write it down, you see, when I leave I have to do this, I have to do that, you can make a list, you see. Si può scrivere, quando io esco dovrò fare questo e questo e questo. And then you fold it up and put it somewhere in your baggage. E poi si ripiega questo foglietto e si mette da qualche parte nel vostro bagaglio. And then when you leave, you can read it. E quando lasciate questo posto potete leggerlo. And become depressed again. e ritornare ancora depressi. What's that now? What's that? What does that mean? I forgot what it means. I forgot what it means in English. Oh, yes. Just abandon ideas of beauty. Abbandonare le idee di bellezza. It's not necessary. Non è necessario. These are social conventions. Sono convenzioni sociali. You can look absolutely terrible and still become fully liberated. Potete apparire assolutamente terribili, ma nonostante questo diventare completamente liberati. Very good, yeah. And finally, to keep the noble silence. E alla fine c'è da mantenere il nobile silenzio. So this means even not to look at somebody. E questo significa anche non guardare agli altri. Because when you look at somebody, you beckon a response. Perché quando guardate qualcuno avrete una risposta. So you have to walk around like ghosts. Bisogna andare in giro come spettri. So this is our basic rules for our practice. Queste sono le regole di base della nostra pratica. And then we have the usual. Then we have these 3 Vipassana verses. E poi ci sono i 3 versi di Vipassana. And what these tell us is what it is that we're investigating. E quello che ci dicono è ciò che viene investigato. And tomorrow I will make that more clear for people who are new to the practice. e domani lo renderò più chiaro per quelle persone che sono nuovi alla pratica. And then there are some sayings from the Buddha. E poi ci sono alcune cose che ha detto il Buddha. Okay. Alcune frasi del Buddha. Then after this I shall do some standing meditation. E dopo questo facciamo un po' di meditazione in piedi, which is really to make you aware of the factors of enlightenment, the factors of awakening. E che serve per rendere chiari i fattori del risveglio, dell'illuminazione. And then just a guided meditation, a guided sitting meditation. E poi una meditazione seduta guidata. Again, especially to introduce those who are new. Specialmente per quelli che sono nuovi. And to keep everybody else awake. E per tenere tutti gli altri awake. Svegli. Ecco. And then a little practice of metta. Metta, love, goodwill, developing goodwill. E poi un po' di pratica di metta, che metta è la... benevolenza. Benevolenza, sì. And then we can go to bed. E poi andiamo a letto. Right. So we can begin, yeah? Possiamo iniziare. So follow this with your own understanding, eh? Seguite questo nel vostro modo di capirlo. Yeah. And you don't have to do this little ceremony. You don't have to do this little ceremony. Non dovete fare questa. You don't have to. Non siete obbligati. But it might relieve you to know that it doesn't make you a Buddhist. Vi può rendere sollevati il sapere che questa cerimonia non vi rende buddhisti. Okay. Buddhaṃ pujami. Dhammaṃ pujami. Sanghaṃ pujami. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. So can you read it? Mi impegno. Leggo, vi passa Nagata. Mi impegno. No, mi impegno. No. Sila. È un insieme, mi impegno. Mi impegno a non uccidere, uccidere a o far del male ad esseri viventi. Mi impegno a non prendere ciò che non mi è liberamente dato. Mi impegno ad astenermi da un comportamento sessuale scorretto. Mi impegno a non usare la parola in modo scorretto. Mi impegno a non assumere sostanze che offuschino la mente. Mi impegno a non mangiare più del necessario. Mi impegno a non dormire più del necessario. Mi impegno a non indulgere ai divertimenti. Mi impegno a non indulgere all'abbellimento estetico. Mi impegno a rispettare il nobile silenzio. Tutti i fenomeni condizionati sono impermanenti. Quando questo è compreso con saggezza, si diventa disincantati riguardo a ciò che non può soddisfare. È proprio questa la via della purificazione. Tutti i fenomeni condizionati sono insoddisfacenti. Quando questo è compreso con saggezza, si diventa disincantati riguardo a ciò che non può soddisfare. È proprio questa la via della purificazione. Tutti i fenomeni condizionati sono privi di un sé. Quando questo è compreso con saggezza, si diventa disincantati riguardo a ciò che non può soddisfare. È proprio questa la via della purificazione. Esiste ciò che non nasce, non muore, non è creato, non è condizionato. Rifugio, porto e casa, perfetto appagamento e pace. Così come il grande oceano ha un solo sapore, il sapore del sale, così il Nibbana ha un solo sapore, il sapore della libertà. Tutti i fenomeni condizionati sono destinati per loro natura a deperire. Lavorate diligentemente per la vostra liberazione. Sadhu, sadhu. Sadhu. So we can